the face of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Sometimes it's hard to break out of the bubble here in Washington and remind ourselves that behind these statistics are people's lives, their capacity to do right by their families. Dietro le statistiche ci sono le persone vere, in carne ed ossa, le loro vite, i loro problemi, le loro difficoltà, il loro dolore, la loro sofferenza, il loro disagio. È stato un Obama che definirei realista, preoccupato, pragmatico, piuttosto attento a essere comprensibile e propositivo per la grande platea televisiva, quello che dalla Brookings Institution, uno dei grandi think tank di Washington, ha parlato agli americani, tornando a occuparsi di cose di casa propria, non più degli scenari complicati, scenari internazionali di cui il cittadino della strada poco capisce, se non l'angoscia che trasmettono e i costi che provocano, ma invece di America 2009-2010, dei 7 milioni di americani che hanno perso il posto di lavoro dall'inizio della recessione. Ha detto Obama che la grande depressione, con la G e la D maiuscola, sarebbe stata evitata, ma che c'è ancora da temere problemi nel sistema finanziario, se non un collasso. Insomma, che la strada è ancora lunga, che il lavoro da fare ce n'è ancora tanto, e ha individuato, ha cominciato a disegnare delle possibili soluzioni. Tre in particolare sono state al centro del suo discorso. Our economy is growing for the first time in a year, and the swing from contraction to expansion since the beginning of the year. Perché l'economia, come dice il Presidente, sta tornando a muoversi nella direzione giusta, e allora bisogna insistere, bisogna individuare delle priorità e renderle appunto realisticamente attive, non solo parte di un programma fatto di propositi. Queste priorità si chiamano piccole imprese, in favore delle quali ha proposto interventi, sgravi fiscali essenzialmente, poi grossi e rapidi investimenti nelle infrastrutture, ovvero lavori pubblici, autostrade, no? Ponti, acque, ferrovie da rifare o da migliorare, per sostenere quegli sforzi portati avanti in direzione di un rilancio quantitativo dell'occupazione, e infine la questione dell'efficienza energetica, degli investimenti in energia pulita, nuovi incentivi per i consumatori che investono in tecnologia verde per le proprie abitazioni. In sintonia, ma in sintonia, ci metterei anche un punto di domanda, con quanto si sta discutendo a Copenaghen, dove le cose dopo poche ore già si sono complicate e neanche poco. Di fatto si sa che gli indici di gradimento di Barack Obama continuano a scendere, mancano poche ore ormai alla cerimonia nella quale riceverà il Nobel per la pace, un Nobel per la pace tra l'altro appesantito, no, dai discorsi che vanno definiti inevitabilmente di guerra pronunciati da Barack Obama riguardo al nuovo stanziamento di truppe in Afghanistan. Il 47% degli americani ha detto di approvare il lavoro del presidente in questo momento. Siamo ai minimi storici. Già il 50% di qualche giorno fa, che avevamo salutato con un certo scandalo, insomma, è già ormai una chimera. Peraltro solo il 27% degli americani è convinto che convinto che Obama meriti il premio Nobel, che riceverà giovedì, domani, a Oslo, anche questo sulla base di un sondaggio di una grossa ditta del settore. Primo piano. I decided that I did have to speak out because it had become clear that there was this big gap between what was understood by the relevant scientific community and what was known by the public, people who need to know. Allora, questa è la voce di James Hansen. James Hansen, di solito noto solo ai ben informati o agli addetti ai lavori, in questo momento invece è diventata una personalità globale. È un uno scienziato che oltre a essere considerato il più autorevole esperto di cambiamenti climatici, nonché titolare della denuncia che più di ogni altra ha fatto in un certo senso scoppiare, no, il bubbone relativo alla gravità del problema, ora è tornato a parlare qualche giorno fa in relazione a quanto sta andando in scena al summit di Copenaghen, dicendo cose assai provocatorie, dicendo che lui si augura che il summit di Copenaghen vada male, ha detto è meglio che collassi, che non raggiunga raccordi, che ciascuno se ne torni a casa così con le pive nel sacco, senza aver fatto concessioni di alcun genere, che vengano portati avanti nel solco di Kyoto una serie di accordi morbidi, deboli, li ha definiti, che convincerebbero la gente che si sta marciando nella giusta direzione, mentre questo, secondo Hansen, non è affatto vero, perché la situazione, secondo lui, è assai più grave di quella che ci possiamo prospettare informandoci sui giornali in modo superficiale, che i rimedi necessari sono radicali, che il problema del deperimento dell'ambiente, della questione del cambiamento del clima, non lascia spazio a compromessi. Lui la paragona alla questione della schiavitù o la paragona al nazismo, insomma sono dichiarazioni molto pesanti. Dice non è che la schiavitù la si può affrontare riducendo un po' la schiavitù o il nazismo tenendo un po' calmi i nazisti, sono fenomeni che vanno affrontati in modo radicale, e non è quello che sta succedendo, secondo lui, a Copenaghen in queste ore, mentre già nascono le prime frizioni, i primi disaccordi tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo. C'è Maretta, c'è grande inquietudine, sono emersi dei documenti che non dovevano emergere così presto, si è venuto a capire, a sapere, anche se ci si muove nel mondo delle indiscrezioni, che ci sarebbe un accordo fra paesi ricchi per in un certo senso sottrarre completamente il controllo, le scelte decisionali sui nuovi dati da assumere come standard anche per i paesi in via di sviluppo, che verrebbero dunque equiparati agli obblighi dei paesi ricchi, mentre naturalmente hanno dei bisogni, delle necessità e dei percorsi ben diversi. E poi c'è su tutto questo, no, questa aspettativa che si è raddoppiata dal momento che è saltata la prima visita di Obama, c'è l'aspettativa per l'arrivo del presidente americano, che ormai è distante diversi giorni da adesso, anche perché tra l'altro questo summit di Copenaghen, come sapete, è infinito, no? È un po' un aspettando Godot, no? Aspettando Barack Obama, arrivo, e quando arriva si dicono tutti, si chiedono con grande ansia personaggi di grande rilievo che vengono intervistati in questi giorni, in queste ore dai giornali americani, ci si aspetta che tiri fuori il coniglio dal tradizionale cilindro, che faccia la sorpresa, che non deluda il mondo, pena naturalmente lo scorno nei suoi confronti. È un po' sta diventando un po' la maledizione questo presidente, l'essere sempre risolutivo, dimostrarsi capace almeno nell'istante dell'apparizione pubblica di risolvere problemi giganteschi. Non era l'uomo della speranza, gli si rinfaccia in questo momento, non è quello capace di rischiare, di innovare, di cambiare le regole del gioco. Se è così, anche a Copenaghen dovrà inventarsi qualcosa. Io credo che nonostante il vertice di ieri con Al Gore, che è andato ad aprire la strada, nonostante la grande preoccupazione che circonda questa partecipazione di Obama a Copenaghen, di conigli nel suo cilindro non ce ne siano. Speriamo per lui che ci sia almeno qualche pollastro. When the truth is found to be Buongiorno America. That's a new lady, number 9. We don't know the real number, but some are joking about the 12 days of mistress. No, not all of the lists agree. Allora, dunque, in America, copyright del New York Times, hanno già varato una nuova etichetta, un nuovo sottogenere giornalistico. Si chiama il maybe journalism, sarebbe il giornalismo forse, il giornalismo della ricostruzione di fantasia, e a casa nostra ne sappiamo qualche cosa, vero? Nelle serate italiane si vedono molte ricostruzioni recitate, ringraziamenti ad attori che hanno fantasticamente interpretato la parte, non so, di un terribile mafioso o quant'altro, o naturalmente la ricostruzione così sulla base degli indizi di quel famoso giallo, omicidio o quant'altro. Beh, anche in America impazza questa mania, e stranamente l'oggetto di interesse dei giornalisti forse più caldo in queste ore è Tiger Woods e il suo sempre tragicamente crescente numero di amanti. Stamattina erano 7, poi abbiamo controllato intorno alle 11:30, erano 9, sono 11 adesso, ma probabilmente già la 12ª è uscita allo scoperto di queste ragazze, così tutte professioniste della vita del club, fanno uffici stampa, comunicazione, rappresentano nel club di Las Vegas, insomma tutti business oriented, ragazze che dicono che naturalmente che conoscono Tiger Woods, a voglia se lo conoscono. Per il ragazzo che era un modello, no, comportamentale fino a pochi giorni or sono, l'ex ragazzo, il grande campione, insomma, ma quel Tiger che l'America e il mondo ha amato, il disastro è totale. Gatorade ha cancellato la produzione del Tiger Focus, che era un energy drink per fan di Tiger, poi chissà perché vista l'attivismo di cui si è reso evidentemente protagonista. Tutti i marchi che lo sponsorizzano e riempiono il suo portafoglio lo stanno salutando, se non altro hanno già tolto le pubblicità dal prime time, dall'orario di massimo ascolto televisivo: Accenture, Pepsi, Tag Heuer, Electronic Arts, Nike, Procter & Gamble, Gillette e quant'altro. Poi sapete, anche la suocera si è sentita male a casa sua ed è finita in ospedale, e lui probabilmente in questo momento si rifà a quel famoso detto che peggio di così, insomma, ha da passare a nuttata anche per Tiger, no, povero. Ed è tempo poi di grandi bilanci, piccoli grandi bilanci di cui non sappiamo fare a meno, perché poi rendono, come dire, più digeribile anche il nostro quotidiano. Il settimanale Time ha organizzato una mega monster serie di migliori, peggiori, dei 10 di, i 10 tutto, i 10 migliori dischi, 10. Noi non sappiamo fare a meno di ripercorrere tutte queste classifiche che raccontano l'America, ma raccontano anche il mondo, per cui oggi e poi nei prossimi giorni ci torneremo, prendiamo una categoria a caso nel genere cultura popolare, e riguarda i 10 massimi divorzi, separazioni, rotture, distacchi, insomma, consumati durante il 2009. Eccoli qua, per carità, facendo il contro la rovescia, dal basso. Al decimo posto, secondo gli esperti di Time, il divorzio e la separazione tra Rihanna e Chris Brown. Lei è quella che canta Umbrella, è stata picchiata dal fidanzato, anche lui star del pop americano, dopo una storia di SMS sbirciati sul telefonino dell'altro. Alla fine ha deciso di lasciarlo, perché non vuole essere un cattivo esempio per le altre donne. Poi ha fatto un nuovo disco, è ripartita più bella che mai, mentre lui è entrato in un'altra top ten, di cui magari ci occuperemo in questi giorni, dei personaggi più impopolari in assoluto d'America. Il fidanzato di Rihanna proprio è dei peggiori. Nono posto dei più dolorosi e clamorosi distacchi del 2009, Harry e Pepper. Chi sono Harry e Pepper? Sono i pinguini gay dello zoo di San Francisco, di cui la stampa e i media americani sono occupati moltissimo, anche perché sono i pinguini gay dello zoo di San Francisco, che è la gay town per eccellenza, non solo d'America, del mondo. Quindi, insomma, quei due pinguini, Harry e Pepper, erano un'icona. Ebbene, Harry ha lasciato Pepper, sapete per chi? Per Linda, cioè per una pinguina che si è prontamente accasata dopo essere rimasta vedova, e Pepper è disperato. Cioè, attorno alla storia così fiorisce tutta una aneddotica, soprattutto online. Una mail che segnalo per tutti sostiene che Pepper non deve preoccuparsi, presto troverà un altro pinguino maschio 10 volte più bollente di Harry. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Questa è una separazione annunciata una trentina di volte, pare forse consumata, ma non ne siamo sicuri. I fratelli Gallagher, ovvero gli Oasis, no, la band più famosa del mondo per diversi anni, poi ha imboccato una lunga decadenza fatta di scazzottate fra due fratelli, Noel e Liam. Si sono separati, ma comunque secondo me la reunion è dietro l'angolo. Al settimo posto ci sono Michael Phelps e la Kello, quelli dei fiocchi d'avena. Il divorzio è stato consumato dopo che Michael, all'ombra delle infinite medaglie olimpiche, è stato beccato a fumare un'enorme pipa di marijuana in un party universitario. La Kellogg ha detto che non è un buon esempio. Al sesto posto c'è la separazione tra John e Kate Gosselin, due protagonisti di un reality show basata sulla compattezza di una coppia con 8 figli. Hanno divorziato non appena è finito il reality show in questione. Al quinto posto la separazione tra Mel e Robin Gibson. Lui, sapete benissimo chi è Mel Gibson, lei era una infermiera del dentista di Gibson, poi si sono fidanzati e sposati, non hanno fatto l'accordo pre-nuziale, e lei conta di portarsi via circa metà del miliardo di dollari di cui Gibson è intitolata. Al quarto posto una separazione lesbo, quella tra Lindsay Lohan e Samantha Ronson. Lindsay Lohan è un'ex eroina dei programmi televisivi per ragazzi, poi è cresciuta, è diventata grande ed è diventata un personaggio pestifero, capace dei peggiori scandali, fra cui questo fidanzamento lesbico, che poi è stato seguito con molto interesse, molta passione dai media americani, perché è estremamente stravagante. Terzo posto, eccolo qua. This will be my last broadcast. On CNN, where I've worked. Ecco, lui se lo dice da solo, che se ne va da CNN. È Lou Dobbs, ed era il conduttore più controverso, più amato, odiato, simpatico, antipatico. Era il bastian contrari di CNN, uno con un patriota duro, un conservatore estremo. Faceva dei programmi che facevano arrabbiare tanta gente, ma facevano anche molto ascolto. Ha detto arrivederci a CNN, forse perché va a Fox, che mi sembra l'ipotesi più credibile, forse perché va in politica, ma ci crediamo un po' meno. Al secondo posto la separazione tra Bristol e Levi Johnston. Chi è Bristol? È la figlia di Sarah Palin, e lui adesso è uno che sta sulle riviste un po' porno per signore, e si fa fotografare nudo. Lei era la figlia scavezzacollo di Sarah Palin, sono stati molto fotografati, molto seguiti, molto indagati, e poi si sono molto mollati subito dopo la fine della campagna elettorale. Al primo posto per i giornali americani, signore e signori, una volta tanto vinciamo una medaglia, via. Barack Obama, voi non ci crederete, ma sono andati a prendere Silvio Berlusconi e Veronica Alario vengono eletti i titolari della separazione, della rottura, del distacco dell'anno, secondo Time Magazine. Si parla naturalmente di soldi, si parla di libri in uscita, si parla sempre con questo interesse, come dire, ansioso quasi, che anche i media americani rivolgono nei confronti del nostro premier, perché bene o male la notizia la fa sempre lui. È una medaglia. medaglia d'oro l'abbiamo portata a casa. Torneremo a queste liste del 2009, bene o male, tempo di bilanci anche a Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Valeria Bernardi a Milano, la mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook si chiama redazione Jefferson 3, replica dopo mezzanotte, diretta dopo l'una e mezza, qui su Radio 24. Ci sentiamo, state tutti bene.